Radio 24 Reportage. Lombardia e Veneto, 20 anni intorno all'autonomia. Di Cristina Carpinelli e Valentina Furlanetto. Viva! Viva il nostro impegno per la libertà del nostro popolo. È il 20 maggio del 1990. La Lega raduna i suoi elettori sul prato di Pontida, nella Bergamasca. Un giovane Umberto Bossi giura fedeltà al federalismo. Una manifestazione che giunge subito dopo una tornata elettorale amministrativa del 6 e 7 maggio che vede la Lega al 4,1% nazionale e al 18,9% in Lombardia, dietro alla Democrazia Cristiana e davanti al Partito Comunista. Buonasera. È stato proprio un terremoto. Il quadripartito e la Democrazia Cristiana non hanno ottenuto la fiducia chiesta agli italiani. Un successo determinato dalle inchieste di Mani Pulite che mostrano agli italiani un sistema politico corrotto. La Lega, partito affermatosi localmente sul finire degli anni Ottanta, diventerà così partito nazionale e di rottura, come dirà Bossi nel discorso di Pontida del 92. O peggio, perché gli stessi di prima potessero riuscire ad assorbire un movimento politico profondamente diverso per ideologia, per storia, per meriti. E ancora ho attaccato subito per riuscire nel più breve tempo possibile a rendere visibile la differenza politica e ideologica tra noi e i nostri alleati di governo, in modo da poter impostare la strategia futura. A partire dal 1995 la Lega accantona il suo ideale federalista per abbracciare la politica della secessione, ovvero rendere indipendente da Roma la Padania, delineando così il pensiero dell'indipendentismo padano, un pensiero articolato dall'ideologo del partito, il professor Gianfranco Miglio, che in uno storico intervento del 94 parlerà dei punti attorno ai quali far crescere il partito della Lega. Il modo con cui si riesce a limitare la quantità e la presenza dei parassiti. I parassiti sono nella società così come sono sugli animali. Chi di voi ha un cane, un gatto, sa che a un certo punto, se i parassiti crescono al di là di un certo limite, l'animale muore e muore una società. E ci sono esempi storici di società che sono scomparse per eccesso di parassitismo. Due anni dopo, il 2 giugno del 96, sarà Umberto Bossi a parlare di secessionismo in un simbolico discorso. Sul Po ci sarà una manifestazione a cui affluiranno milioni di persone. Una manifestazione enorme, così che dopo aver creato il cuore della Padania, a Mantova, il Parlamento è il cuore, la testa della nazione padana, a Venezia, il governo, andrà, sapete, in un palazzo storico del centro di Venezia, i nervi, cioè i ministeri reticolari distribuiti sul territorio. Il 15 settembre prenderà forma la colonna dorsale, la spina dorsale della nazione padana, il Po. In quello stesso prato, quello stesso giorno, si forma il Comitato di Liberazione della Padania, che si doterà di un servizio d'ordine organizzato, le Camicie Verdi. Su di loro, nell'agosto dello stesso anno, la magistratura procederà per verificare se fossero colpevoli di essere una polizia segreta e un movimento eversivo. Il pensiero leghista degli anni 90, coi toni forti che abbiamo raccontato, si va però lentamente trasformando nel tempo, forse ammorbidendosi, anche se, soprattutto in Veneto, resiste un'ala più convinta sui temi del secessionismo, come racconta, al microfono di Valentina Furlanetto, Ettore Beggiato, leghista della prima ora, autore del libro 1866, La grande truffa, il plebiscito di annessione del Veneto all'Italia. Alla fine del Settecento, quindi con la caduta della Repubblica Veneta, da quel momento nel Veneto ci sono tutta una serie di momenti storici, di personaggi, di documenti che testimoniano come ci sia una costante ricerca di, chiamiamolo autogoverno, perché può essere autonomia, può essere federalismo, adesso qualcuno parla addirittura di indipendenza, ma questa è una costante nella nostra storia di Veneti. Il Veneto divenne parte integrante del Regno d'Italia il 22 ottobre 1866. Al referendum, solo lo 0,01% dei votanti votò contro l'annessione. Ma per i venetisti il plebiscito fu truccato. Io ho fatto un libro che non a caso si chiama 1866, La grande truffa, visto che c'era un trattato internazionale che prevedeva che i veneti andessero a votare il 21 e 22 ottobre 1866. Il trattato internazionale parla, aperte le virgolette, sotto riserva del consenso delle popolazioni debitamente consultate, chiuse le virgolette. Invece due giorni prima, il venerdì 19, il Veneto passa sotto il Regno d'Italia e quindi i veneti vanno a votare quando tutto è già stato deciso. Non è un caso se il referendum per l'autonomia di questi giorni è stato voluto proprio nella data del 22 di ottobre. Un comando di 8 uomini occupa Piazza San Marco a Venezia in nome della Repubblica Serenissima. 7 ore di tensione, poi il blitz dei carabinieri, tutti arrestati. Il punto più alto, folcloristico perlomeno, dell'indipendentismo veneto si toccò 20 anni fa esattamente, nel 1997. Nella notte tra l'8 e il 9 maggio, 8 cosiddetti patrioti veneti, più altri 2, assaltarono Piazza San Marco con un blindato, un generatore, casse di viveri e di grappa. Chi sono gli 8 protagonisti della disperata impresa? Veronesi e padovani di provincia con un sogno comune, il Veneto indipendente. Il mondo politico condanna il grave episodio e c'è chi dice Roma non ha capito il malessere del Nord-Est. Solo folklore? Beggiato non la pensa così. Non è stato un momento di folklore, io lo leggo come un grande gesto di amore verso la nostra terra, verso il popolo veneto, verso la storia del Veneto. Che fine hanno fatto quelle persone? Hanno subito diversi anni complessivamente nelle carceri italiane. Sotto le ali del nostro leone, da ste parti se stava bene. Sotto le ali del nostro leone. Noi, lo scopo principale era far sapere al mondo, far conoscere al mondo il problema Veneto. In Italia il Veneto è un paese occupato. Noi riteniamo. Sotto a criniera del nostro. Il sindaco di Venezia di allora, Massimo Cacciari, fu l'unico con cui i serenissimi accettarono di parlare, prima dell'intervento dei corpi speciali che riportò queste persone a terra e le arrestò. L'autonomia è sacrosanta, ma soltanto nell'ambito di una riforma federalistica che è stata massacrata dal centrodestra e centrosinistra nel corso degli ultimi 20 anni. Soltanto all'interno di un'organizzazione federale europea questi movimenti cesserebbero di avere senso, cesserebbero di avere significato. Quindi, dato che l'Europa è a pezzi come adesso, è evidente che si moltiplicheranno le spinte nazionalistiche, sovraniste, autonomistiche di questo genere. Sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua voce. Guida il popolo nella tempesta. Sino ad arrivare alla scelta del referendum del 22 ottobre, nel quale si tocca il tema dell'autonomia di Lombardia e Veneto, ma con toni e finalità meno estreme degli anni 90. Quest'anno, per la prima volta a Pontida, Umberto Bossi non ha parlato. troppo pesante e imbarazzante la condanna a 2 anni e mezzo del Tribunale di Genova per truffa ai danni dello Stato, con il conseguente sequestro di 48 milioni di euro dalle casse della Lega, la maggior parte dei quali riciclati in fondi neri in Tanzania e a Cipro. Salvini, dal partone della città della Bergamasca, ha parlato a una nuova Lega, dove anche i colori sono cambiati. Il verde, il colore della Padania libera da sempre, si è mischiato all'azzurro della felpa di Salvini. Salvini ha scelto di cambiare, mandando in pensione i Celti, la Rosa Camuna, la secessione. E chiedo a voi se siete pronti da oggi a cominciare una lunga e pacifica battaglia per liberare questo paese dalle mafie, dallo sfruttamento, dalla corruzione, dall'invasione clandestina. Siete pronti, sì o no? Se voi ci siete, io ci sono, viva la Lega, andiamo a governare e a liberare questo paese. Ed ecco che si arriva al referendum del 22 ottobre, che parla di autonomia e che viene sostenuto in maniera trasversale dai partiti di destra e da quelli di sinistra. Per molti dunque l'indipendentismo leghista in Lombardia e Veneto si avvicina più alla destra europea ed è meno vicino agli indipendentisti catalani. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.